avait des yeux d'opale qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Vi avevo annunciato che questa mattina avrei cercato di fare con voi una riflessione sul caso che tanto sta appassionando l'Italia. Inutile che lo citi nella sua fattispecie, lo sapete esattamente. Tanto che questa mattina, oggi, misi nel mio profilo Facebook, come faccio ogni giorno, quello che era l'argomento del giorno e lo intitolai Il familismo amorale. Poi vi dirò anche perché, entreremo nello specifico. Questo era riferito agli scazzi che tanto stanno appassionando l'Italia. Ma subito ho scritto un'ascoltatrice che è una fedelissima ascoltatrice, che spesso interviene nelle nostre trasmissioni. Dice: mi hai fatto uscire subito una bestemmia. Dico: perché? Ho risposto: una bestemmia. Dice: perché l'accanimento mediatico, mi ha scritto, contro questo caso di luridi pecorai sulla soglia della subnormalità mi ha letteralmente strapazzato le gonadi. Vediamo quanto è vero, è giusto, è corretto, è comprensibile definirla una vicenda di luridi pecorai. Quanto in realtà questa vicenda, che ci appassiona, che ci coinvolge, che ci permette di esorcizzare molte nostre paure, molte nostre reticenze, molti nostri fantasmi nascosti e sopiti, faccia parte visceralmente della nostra realtà ambientale, territoriale, familiare, emotiva. Io penso che la Sabrina sia stata a lungo violentata dal padre e che poi siano scattati dei meccanismi di gelosia quando anche il padre ha, diciamo, molestato la Sara e si è confidata con la cugina, la quale si è visto poi privare o abbandonata dal padre. In merito a questo spettacolo indecoroso della televisione, ma la vogliamo smettere una buona volta? Lasciate lavorare i magistrati. La zia è stato riconosciuto che ha peccato di favoreggiamento, ma ha detto la conduttrice, ripetuto due volte, non è perseguibile il favoreggiamento come reato in famiglia. È assurdo. Non ho altro da dire. Se Nicoletti vuole approfondire questo tema, ecco, grazie. Certo, se noi andassimo per strada a fare delle domande alle persone in generale dicendo: ma secondo voi quando termina il Medioevo, inizia l'era moderna? Secondo voi quali sono i fatti salienti del Rinascimento italiano? Ma ancora di più, secondo voi qual è stato l'anno della Costituente? Secondo voi quando terminò la Prima Repubblica? Ecco, ci sarebbero delle grandi incertezze. Sul caso di Sara Scazzi abbiamo improvvisamente una storiografia temporeale informatissima, dettagliatissima, tutti sanno tutto. Tutti hanno acquisito e improvvisamente hanno scoperto, come se fossero delle fantastiche epifanie che scendono sulle persone e attribuiscono caratteri di visioni profetiche, di capacità di introspezione, di letture stratificate della realtà. Tutti hanno una loro lettura, tutti sanno, tutti immaginano, tutti hanno un quadro lucido, perché evidentemente, se siamo tutti così esperti, ne sappiamo qualcosa. Nella nostra esperienza individuale, familiare, di racconti ascoltati nel proprio paese, nel proprio condominio, nella propria famiglia, abbiamo degli elementi di riferimento, di paragone rispetto al caso di questo omicidio, di cui i margini reali e concreti sono ancora molto sfilacciati, per cui siamo esperti. Quindi questa mattina fatemi sapere, ditemi la vostra, io vi dirò la mia, o perlomeno cercheremo di inserirlo in un quadro più ampio, in un quadro che ci dimostra che in realtà, è vero, sì, non ci sorprende, perché fa parte della nostra realtà, ma la nostra realtà in quanto esseri umani coscienti della propria umanità, non riferita a particolarissime e diversificate fattispecie che non appartengono a noi, luridi pecorai. Le vicende da luridi pecorai le statistiche dicono, cioè, di abusi sessuali in famiglia tra consanguini, di stupri, di coperture, di vicende poco riferibili nell'ambito delle famiglie, attraversano trasversalmente la nostra società, a tutti i livelli sociali, tutti i livelli di cultura, insomma. I padri sporcaccioni possono essere professori universitari, possono essere medici, anzi anche avvocati, possono essere specchiati scrittori, illuminati e fantasiosi presentatori televisivi, possono essere di tutto. Però nello specifico del caso di Sara Scazzi esiste qualcosa che forse vale la pena di approfondire. Beppe Neri, buongiorno. Luca, buongiorno. Beppe Neri, ricordo, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Mentre voi intanto userete il vostro ditino indice per digitare l'800240024 e dare finalmente questa mattina contezza e evidenza alla vostra esperienza o alla vostra capacità di lettura di questa vicenda, sentiamo Beppe Neri cosa da dire rispetto al quadro in cui potrebbe essere inserito il caso Scazzi. Beh, io penso che la scelta di chiamarlo familismo amorale, riferendoci a quello che già più di 50 anni fa Banfield scrisse dopo aver passato 9 mesi in un paese della Lucania, sia abbastanza attagliante, si identifichi bene con quello che è il contesto. Chiunque di noi abbia esperienza, io ho vissuto 20 anni nel profondo sud, sa che alcuni elementi cardine che vennero descritti, ripeto, più di mezzo secolo fa, sono ancora molto presenti. Per esempio, facciamo un inquadramento che hanno detto. Banfield è un sociologo, mi sembra canadese, che aveva una moglie lucana, si chiamava Laura Fasano. Stette, osservò la società meridionale italiana, questo non per dire che accadeva solo lì, lui fece un quadro, osservò un paese della Lucania di cui cambiò il nome, lo chiamò Montegrano, perché poi il sindaco si era arrabbiato, il vero paese della moglie era un altro, e osservò alcune cose e chiamò questa sua osservazione familismo amorale. Ma per chiarire quello che dicevi tu e la trasversalità anche geografica, lui si preoccupò anche di verificare come quello che lui sosteneva per quel contesto fosse valido in provincia di Rovigo nel Kansas, quindi assolutamente non è con la catrisca solo del meridione italiano. Lui lo osservò in un momento in cui magari era possibile vederlo in maniera più trasparente, meno mediata, meno coperta, meno offuscata poi dalle stratificazioni di civilizzazione apparente. Io trovo che sia molto preciso il tipo di concetto che lui esprimeva come cardine, cioè la regola era massimizzare unicamente i vantaggi materiali di breve termine della propria famiglia, perché quelli hanno la possibilità materiale di essere realizzati immediatamente. Tutto ciò che esula dall'immediato tornaconto e dal beneficio per i figli e la famiglia, già gli zii, i cognati sono lontani, esula dai miei interessi e dalle mie competenze, anzi può entrare in conflitto. Quindi questo specie di nucleo duro e chiuso, questa specie di monade che non comunica, è qualcosa che è passata attraverso i decenni e che potrebbe darci degli spunti molto interessanti per capire poi come certe cose si realizzano. Ecco, tradotto in termini concreti e più possibilmente applicabile al caso di cui stiamo parlando, se devo difendere i cuccioli, i figli, oppure il marito o la moglie, non vale nulla, non c'è nessuna regola, il mondo non esiste. Potrei prendere in mano un lanciafiamme e annientare l'umanità perché debbano rimanere soltanto queste persone. Ma c'è una spiegazione che bisogna sempre aver presente e che è fondamentale nel capire le psicologie che muovono certi comportamenti. Io faccio in questo modo perché sono autenticamente e sinceramente convinto che tutti gli altri nel mio contesto del paese si comportano allo stesso modo. E quindi questa è la regola che vige, quindi non sto violando nessun principio etico, perché ognuno, nella mia convinzione, si basa su questo criterio. È interessante questa lettura sulla società basata appunto sul familismo morale. Tutte le democrazie, i progressi sociali, le aperture, le comprensioni dell'identità dell'altro sarebbero sovrastrutture fittizie. Tutti sappiamo che ci prendiamo tutti per il culo, quando in realtà tutti sappiamo che quello che veramente per noi conta è salvaguardare il gregge, la tribù. Ha detto giustamente l'ascoltatrice Giulia, che è una storia pecorile, pastorale. Ma io vedo molte storie pastorali nei grandi caseggiati di Quarto Giaro del Tiburtino Terzo. Non penso assolutamente che sia soltanto da circoscrivere al Salento o a quella situazione particolare. Devo dire che l'effetto moltiplicatore e l'effetto di dilatazione dei media sicuramente ha un peso spaventoso. Però sto vedendo in questo momento che un'applicazione concreta, reale, immediata del concetto di familismo amorale sta colpendo il nostro pubblico. Noi stiamo parlando di famiglia, abbiamo toccato l'aspetto più doloroso forse, perché visto che siamo tutti esperti del caso Scazzi dovremmo tutti dire lo sappiamo, perché ci facciamo l'occhiolino, siamo anche noi della stessa idea, anche noi faremmo la stessa cosa, sappiamo che esiste il familismo amorale che uccide ogni morale. E tutti invece mi telefonano, stanno telefonando per parlare di TV, per fare come Don Mazzi, per fare come quello degli utenti incazzati con gli occhialini rossi che vivono in maniera parassitaria andando in televisione a dire che tutta colpa della televisione. Questo è un atteggiamento che va oltre, precede l'esistenza stessa della televisione. Il tema questa mattina è il familismo amorale, se volete applicato, visto che vi fa piacere, che ci fa piacere che abbiamo una case history fulminante su questa storia, al caso di Sara Scazzi. Io penso che l'hanno presa, non lo so, per il motivo non lo sappiamo. Sul movente vi siete fatti un'idea, sul possibile movente? No, non riesco a pensare che cosa possa essere successo. Rapimento proprio. È stato proprio un caso, proprio che l'abbiamo trovato proprio, io non volevo che lo trovassi, magari la gente dice proprio lo zio lo doveva trovare. Mi sono dimenticato un cacciavite, come sono sceso dove avevamo parcheggiato stamattina ho visto una cosa della burgecchiatura e mi è venuta una cosa al cuore e... l'ho preso in mano. Ho telefonato a mia figlia. Ma lei l'ha riconosciuto subito? Il cuore me lo diceva. Ci sono molte coincidenze dove lei è protagonista. Il giorno in cui Sara scompare, lei casualmente non va a lavorare perché il trattore è fermo, no? Sì. Casualmente ritorna in quel potere per... Questo è il teatrino del quotidiano a cui siamo abituati, è chiaro, la grande macchina di riproduzione del reale va nel paesino, quindi ogni massaio, ogni operaio, ogni sfaccendato, ogni umarell, questo è il delitto dell'umarell per eccellenza, il protagonista è un umarell, schiavo della famiglia, schiavo della moglie, man mano che vengono fuori gli elementi viene fuori questo matriarcato duro, le donne dormivano tutte per conto loro, lui era... dedicato ai lavori materiali, ai lavori concreti, nella fattispecie del delitto che ancora non è chiara, quindi non entriamo anche noi nel gioco delle interpretazioni, comunque molto presente questa sorta di tetro asettico e frigido matriarcato che dispone dell'uomo come se fosse un oggetto per i minimi indispensabili piaceri e per i tanti doveri. Tu cosa ne dici, Peppe? Ma penso che sia molto molto profondamente radicato. Io faccio sempre l'esempio di un paese che si chiama Bagnara Calabra, che ha dato i natali tra l'altro a due personaggi molto conosciuti che sono Mia Martini e Loredana Bertè, dove esiste da secoli la caccia, la pesca al pesce spada, che viene fisicamente pescato come prestatori d'opera dagli uomini, ma tutta la commercializzazione, la distribuzione e la vendita è in mano alle donne, che gestiscono totalmente il business. Quindi è ipotizzabile comunque che anche la gestione mediatica, che è il vero affare in questa vicenda, stanno venendo fuori le cifre, poi ogni volta che si va in televisione a versare una lacrima si è anche pagati, ogni volta che si va in una trasmissione si è anche pagati, quindi è il business in questo momento. Doppio affare: primo, in nome del familismo amorale, è una maniera per sviare le responsabilità e dilatare comunque quello che può essere un probabile senso di restrizione, di pena, di dover pagare comunque una compartecipazione in un delitto. E d'altra parte la gestione economa e saggia di quelle che sono le risorse che vengono appunto da questa esposizione del proprio familismo amorale. Angela, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io chiamavo per raccontare la storia di parte della mia famiglia che secondo me richiama moltissimo quello che poi sta succedendo adesso, tutti ne parlano di questa storia di La Scazzi, comunque chiaramente meno tragica. A 35 anni ho scoperto, poi perché non avevo mai sospettato nulla, non sapevo assolutamente nulla, che dalla parte della famiglia di mio zio, quindi mio zio e mia zia, c'è stato per anni un abuso da parte di mio zio nei confronti delle figlie. Poi negli anni, insomma, questo abuso è terminato, loro si sono sottratte e comunque la mamma in qualche modo lo sapeva, questo deve essere chiaro. Le mamme spesso lo sanno, lo so sì, con esattezza, perché ho raccolto, io guarderò bene da fare citazioni che possono permettere l'identificazione da mie carissime amiche, vicende simili. Alla morte sì. del padre, un'amica mia mi ha detto con grande sofferenza, sai, come se fosse un sogno, non me lo ricordo, ma io mi rendo conto che mio padre abusava di me in maniera, certo, diciamo, parziale. E cioè, mia madre sapevo che se ne accorgeva, lo sapeva, è una sorta di complicità, non lo diceva. Sì, lei si rende conto che non solo lo sapeva mia zia, ma credo lo sapessero anche mia nonna, le sorelle, perché anche nella nostra famiglia c'era questo matriarcato imperante, no? E poi cosa è successo? Che mio zio comunque negli anni si era trovato anche un amante, e mia cugina da grande si è diventata a sua volta l'amante, aspetti che è difficile, l'amante del marito dell'amante di mio zio, creando un circolo vizioso incredibile. Beh, aspetti un attimo, Angela, Beppe Neri. È inquadrabile questa storia dell'ascoltatrice Angela, che sta raccontando un terrificante ma banale episodio di strani incroci familiari in cui tante volte si vedono, si intuiscono, si capiscono. Nemmeno noi lo ammettiamo a noi stessi quando vediamo certe famiglie o quando guardiamo con un occhio retrospettivo a vicende della nostra famiglia. No, e la chiave di lettura dell'evento della morte è una di quelle che consente di aprire degli armadi blindati nella nostra mente e di accedere, parlandone, a conoscenze che abbiamo con estrema cautela e estrema attenzione chiuso e in qualche modo messo da parte. Ho una curiosità di tipo geografico. Ha a che fare con il Monte Feltro, Angela? Montefeltro nelle Marche, lei intende? Sì. Ecco, vabbè, perché l'inflessione mi portava lontano sia dal Salento che dal sud. Ma questo dimostra però centro Italia. Bene, sì, questo però dimostra che il concetto di familismo morale, tanto per non essere poi accusati di parzialità di ottiche, è stato studiato e applicato a una realtà del meridione d'Italia, ma è stato poi confrontato e collazionato con tutte le realtà possibili, tornato in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti, in varie parti del mondo, ha visto che il principio che vale nelle società arcaiche, che rimangono sempre sotto traccia, sotto ogni civilizzazione esistono sopiti a vario livello comunque dei meccanismi, delle strutture arcaiche che tengono insieme le persone, o sbaglio? Beh. Assolutamente, una delle analogie più immediate che viene in mente è il sistema poligamico dei mormoni americani, in cui c'è questo uomo marito sultano che regna su un harem sconfinato di donne e con un sistema estremamente chiuso che consente tutta una serie di rapporti di tipo incestuoso all'interno della famiglia allargata, ma che però emerge soltanto quando qualcuno scappa. Stella, sentiamo cosa da dire. Stella, buongiorno Stella. Buongiorno, guardi, io volevo dire che secondo me questa definizione dei pecorari è veramente inaccettabile e anche molto classista. Beh, mica l'ho fatta io. No, certo, però se si tratta di una vicenda di gelosia, una gelosia patologica... Sì, però guardi, il termine pecoraro, se usciamo un attimo dalla sua accezione negativa e dispregiativa, spiega molto bene un rapporto arcaico con i rapporti affettivi, sessuali, familiari. È forse il nucleo primario di società che meglio rispecchia l'idea del familismo morale. Beppe, sei d'accordo? Beh, se tu lo vai a collocare in quelle parti del nostro paese in cui l'attività agropastorale è ancora presente e lo è stata per parecchi secoli, sicuramente. In cui la pecora è l'oggetto del lavoro, lo strumento di lavoro, la fonte di sostentamento, e alla necessità diventa anche l'amante. Rientra perfettamente inquadrato in quello che stiamo dicendo. 800240024, tra un istante, dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Intanto i collegamenti vanno avanti a ritmo continuo, davanti alla casa dell'omicidio di Sara. E al mattino di Canale 5 si parla già della zia Cosima e della cugina Valentina, uscite presto da casa. Più tranquilla Cosima, comunque, di Valentina, che rimane quella che sicuramente sta sopportando male le telecamere. È vero, io anche l'ho vista. Cosima era più tranquilla di Valentina, la mamma, più tranquilla della figlia. Mentre Maurizio Costanzo, davanti al sindaco di Avetrana, esprime giudizi sulla cugina Sabrina. C'ha 22 anni, un leggero sovrappeso. Sara, fino all'altro anno era ragazzina, che quest'anno si è diventata donna. La cugina Valentina è stata molto chiara. Avete ribadito la solidarietà a vostra sorella? Sì. Non vi sopportiamo più, avete rovinato voi pure mia sorella, non l'avete mai aiutata. Fuori. In questa mattinata è un po'... Ma noi dobbiamo approfondire. Becco il sindaco di ritorno da Roma e lo convinco... Non esiste lettura più lucida e surreale di quella che fa il Pierrot Lunaire, che è Lucci, che si mette alle spalle dei giornalisti, dei suoi colleghi, anche lui si prende il suo pezzettino di evidenza raccontando quello che fanno gli altri. E è vero, c'è un grande meccanismo di lettura, rilettura, contraffazione, contrapposizione, occultamento in questa vicenda. Io non sono d'accordo con quello che mi scrive Elisabetta su Facebook. Basta Nicoletti, anche tu non hai resistito, come se fosse una colpa, come se fosse andare a rubare la marmellata. Basta veramente, sta diventando un tormento mentale. Da qualsiasi parte se ne voglia parlare, si parla solo di questo caso. Scusa, ma oggi cambio canale. Cambia canale, Elisabetta. Perdi una fantastica occasione per parlare di temi di cui normalmente non si parla. A me importa veramente poco di quello che è accaduto dentro la casa, in quel garage, in quei letti, in quella famiglia di persone la cui antipatia è il primo senso che provo, viscerale, profondo, distanza, lontananza. Però sono molto grato a questa famiglia perché mi permette questa mattina di toccare temi che altrimenti non potrei toccare, basandomi su realtà concrete, reali, condivise da tutti. Beppe Neri, su questo senso di disagio, basta, spegniamo, non ne voglio più sentir parlare, non ne parliamo più, è soltanto un fatto come tanti altri. Invece no, secondo me è il caso di parlare di quello che in questo momento non si vorrebbe parlare. A mio giudizio, se la persona di cui parlavi è un'ascoltatrice assidua, c'è forse sotto il desiderio di preservare e proteggere questa caratteristica peculiare di trasmissione altra che lei ha di Melog. Però io sono d'accordo con te sul fatto che lo strumento ci consente di affrontare questo discorso del familismo amorale, che secondo me è una chiave di lettura che ci illumina su tutte le cose che spesso non riusciamo a spiegarci bene o ci sembrano inverosimili nel 2010 nel nostro paese. C'è una lettura di un sociologo, Benfield, che 50 anni fa, analizzando la società lucana, osservò alcuni punti, e noi stiamo analizzando con Beppe Neri, psichiatra, quelli che sono i punti che ci sembrano più evidenti rispetto al fatto ci appassiona, e ci appassiona proprio perché questi punti fanno parte di noi, della nostra struttura fisiologica, del retaggio ancestrale che crea la nostra maniera di pensare. Quali sono questi punti? Andiamo avanti, Beppe. Ma io penso che la premessa sia che uno dei grandi drammi, senza voler fare discorsi da scompartimento ferroviario, è che nel nostro sud manca la consapevolezza dell'appartenenza a un consorzio civile condiviso. E questo 52 anni fa l'aveva scritto, cito a memoria, con molta chiarezza Banfield: nessuno perseguirà l'interesse comune salvo quando ne trarrà un vantaggio proprio. La legge sarà trasgredita ogni qualvolta sembrerà possibile evitarne le conseguenze. Gli iscritti ai partiti tenderanno a rivendersi ai partiti più favoriti, determinando quindi l'instabilità delle forze politiche. Ma c'è una cosa più terribile, se non sbaglio, che il rappresentante dell'istituzione è comunque corrotto. Se anche non è corrotto, vale il fatto che sia corrotto, qualcosa del genere. No, dice solo i pubblici ufficiali si occuperanno degli affari pubblici, perché sono pagati per farlo. I cittadini non se ne occuperanno, e se lo facessero sarebbero malvisti, perché i cittadini pensano che i pubblici ufficiali saranno poco controllati, perché farlo è affare di altri pubblici ufficiali soltanto, e comunque si presume che i pubblici ufficiali siano corrotti, e anche se non lo sono, lo dovranno essere per principio, perché così sono visti. Tanto è tutto magna magna, e con esatto. Questa frase si è tutti giustificati. Dario, buongiorno. Pronto? Eccomi qua. Sì. Signor Nicoletti, dunque, mi volevo permettere di fare un paragone con questa familismo amorale. Familismo amorale, con il nazionalismo amorale. Cioè, lei pensi, la famiglia amorale è quella che mira, diciamo, al proprio bene, fra virgolette, diciamo, non in un contesto con le altre famiglie, con chi la circonda, con la società, ma per se stessa, diciamo. Sì, convinta, mi scusi, che specifico, che anche nelle altre famiglie, anche se non lo dicono, vale lo stesso principio. Sì, ecco, pensi al nazionalismo amorale. Allora, io nazione, almeno oggi forse in Europa vale meno, ma io nazione vado a conquistare le colonie, vado a conquistare altri stati, perché il mio stato ha bisogno di questo bene a scapito degli altri, non in un contesto di... Quindi la società, che sarebbe quella che comprende tutte le famiglie, oggi potrebbe essere l'Europa che comprende gli stati europei, non si fanno più le guerre. Però... Anche nell'economia, nella macroeconomia, non è il mio campo, si applica al principio del familismo amorale. Io non faccio la guerra, ma strangolo, taglio, sfrutto, possono essere mille le ragioni. Quindi vedo che, diciamo, in campi diversi praticamente, però il principio è un po' lo stesso, diciamo. Cioè viene applicato al massimo questo principio che vale, insomma, purtroppo vale, che è in auge nelle grandi società, nelle grandi, fra le nazioni, fra le cose, e viene applicato dalle famiglie. Praticamente è un po' lo stesso meccanismo. Cioè, forse a me è un'obiezione banale, è una constatazione banale, però credo che ci sia un nesso, proprio un tipo di comportamento che sia molto, molto simile in tutte queste cose. Sentiamo Beppe Neri. Allora esiste un ripercuotersi in scala dello stesso modulo del familismo amorale? Beh, è un nucleo trasferito su un contesto più ampio, ma che riproduce lo stesso tipo di impostazione. Stavo riflettendo che se qualcuno avesse detto durante tutte le nostre campagne di contrapposizione fra schieramenti nel nostro paese negli ultimi anni, se qualcuno avesse letto quello che diceva Banfield nel 58, forse avrebbe avuto qualche strumento di riflessione in più. Banfield diceva: non ci sarà alcun collegamento fra i principi astratti, politici o ideologici, e il concreto comportamento quotidiano. Quindi, esattamente? Quindi, il fatto che in un contesto già culturalmente, economicamente degradato, si percepisca che esistono delle declamazioni che descrivono situazioni ideali di progresso e di sviluppo e il riscontro quotidiano di carenze strutturali, economiche, logistiche, di servizi, fa sì che si rinforzi il convincimento che è all'interno del nucleo blindato familiare che bisogna giocare le proprie risorse, perché tanto non ti puoi e non ti devi aspettare nulla da uno Stato che è lontano e che non è presente. Esattamente questo. Secondo te, Beppe, questo del familismo morale, poi mi sembra che Banfield già ci risponde, è molto legato a alcuni specifici nazionali, almeno ammesso che esistano, o è un principio applicabile anche se in scala diversa a altre realtà? Io so che Banfield aveva cercato di vedere se questo era si poteva estendere al bacino del Mediterraneo e al Medio Oriente. Questo culturalmente ci è facile intuirlo, però il fatto che sia andato a vedere anche la provincia di Rovigo, che era il Veneto povero degli anni 50, ma anche il Kansas e le comunità rurali degli Stati Uniti, fa pensare che è il contesto socioculturale e anche le basi economiche di sussistenza della civiltà contadina con cui ci stiamo confrontando, più che un'area squisitamente geografica. Elvira, buongiorno Elvira. Salve, buongiorno. E adesso non ho più modo di sentire la radio perché sono già sul posto di lavoro. Però lei ascolta, comunque... mi sente sì, bene. Sì. Volevo ringraziare di questa possibilità. Volevo solo dire una cosa, che io sono di Taranto, però adesso chiamo da Bologna. Quindi ho due realtà. Io sono di Taranto e mi dispiace che molte trasmissioni di testate anche non giornalistiche, cioè condotte da non giornalisti veri e propri, ma tipo quella della D'Urso, quella della Panicucci al mattino, insomma, di divulgazione viene, popolare televisiva, sì, viene evidenziato un sud, una vetrana, un paese molto ignorante, e che non è solo quello, non è solo, è la realtà spalmabile in tutte le province italiane, però il quadro non è dei più esaltanti, diciamo la verità. Certo, è vero, però parliamo anche di paesini molto piccoli comunque, che rimangono al di fuori delle grandi province. Sì, ma io che conosco bene le piccole realtà italiane dico che il modulo è abbastanza applicabile in molte altre latitudini, non in tutte, ma in molte altre latitudini. Però è più facile forse incolpare il sud, forse dire questo è successo al sud sono tutte le donne matriarcali, poveri mariti, ma questo non è vero. Poi non sono un contadino, non è detto che sia per forza un ignorante, cioè, scusi, mi dispiace solo che venga evidenziata l'ignoranza del sud, che non è solo quello. E poi volevo dire, sì, però guardi, non è stata, posso dirle, guardi, io sono molto distaccato e non nessuna bandiera da difendere, non mi sembra sia l'elemento principale di questa vicenda, perché noi quando abbiamo trattato con il sorriso sulle labbra e la bavettina al lato della bocca il caso Franzoni, si parlava di una villettina, uno chalet di montagna in tutt'altra realtà, eppure anche lì c'era una sorta di familismo morale, di difesa strenua, di indifendibile da parte di marito, di padre, di tutto un clan, l'incidente probatorio finto, la psichiatra. Era lo stesso modulo applicabile alla algida villettina nel paesino dove erano tutti con le pedule e i calzettoni rossi. Quindi il sud non è la realtà più forte, la demonizzazione del sud non è quello che è venuto fuori in maniera. La sua difesa, ne prendo atto. Sei d'accordo, Beppe? Sono assolutamente d'accordo, ma capisco, pensando a tutti quelli che come questa signora hanno lasciato il sud, penso non per turismo ma per esigenze lavorative, che vivono un pochino questa sottolineatura con una vena di risentimento che arrivo a comprendere. 800► 0024 0024 Familismo Amorale tra un istante dopo l'informazione del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour. Stavo riflettendo con Beppe Neri in studio quanto possa incidere il modello di religione ufficiale, quanto il cattolicesimo, il cristianesimo che è fortemente presente nella nostra società abbia un suo ruolo, ma non dico nel favorire assolutamente, non voglio dire questo, ma nel permettere che esistano anche questi quadri qua, visto che mi stanno arrivando telefonate a decine su abusi sessuali in famiglia. Il senso fortemente di restrizione, tabuizzazione dell'aspetto del rapporto sessuale fa sì che diventa una cosa sporca che si fa in famiglia perché non si può fare liberamente fuori. O esistono delle circostanze, lo dico come domanda, non ho nessun pregiudizio, circostanze patologiche reali per cui questo limite di civilizzazione che giustamente ci siamo imposti venga facilmente superato. Beh, uno, l'impregnazione della morale cattolica è indiscutibile e permea molto trasversalmente tutta la nostra società. Due, le dinamiche intrafamiliari sono tali che è il contesto più immediato e più facile in cui possono trovare un passaggio all'atto una serie di situazioni che forse in contesti diversi trovano una serie di barriere, di ostacoli operativi molto più concreti. Banfield ha toccato questo aspetto legato all'aspetto religioso nel familismo amorale, oppure per lui è una visione talmente anglosassone, talmente lontana da queste sfumature che non gliene importava nulla. Il fine era per capire perché certe società in cui si applicasse fortemente il familismo morale erano regredite da un punto di vista economico, cioè non progredivano economicamente, avevano questa sorta di bieco e arcaico egoismo familiare che impediva quelle normali transazioni che davano poi il benessere. Dice: siete arretrati perché siete schiavi del familismo morale. Ma questa è l'interpretazione che lui dava, che era su un'impronta squisitamente di tipo economico e relativo a un'analisi sociologica delle cause del sottosviluppo o dell'arretramento di alcune aree del paese. Pietro, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Sto aspettando, sì, dica pure. Abbiamo... No, si figuri, io volevo intervenire perché come credo molti uomini sani presumo, ci si ritrova davanti a delle cose che non si riescono neanche a comprendere. Io ho un rapporto personale, interpersonale, diciamo profondo, con una persona che tra l'altro svolge un ruolo anche al di sopra di ogni sospetto perché è una poliziotta, e lei è stata, mi sono reso conto dopo un po' che la frequentavo, di nel sonno specialmente, aveva dei modi di comportarsi e di reagire molto particolari, mi sono reso conto che alla fine dai suoi racconti lei ha patito qualcosa come 15 anni di abusi all'interno della propria famiglia, che ancora non sono riuscito a capire se appartiene alla famiglia della madre o del padre. Ma la cosa che mi ha più colpito e che volevo sottolineare è che essendo nella madre che trova la sponda, questa dicotomia profonda tra vivere un terrore del genere e al contempo però essere completata da una... Cioè la madre era complice degli abusatori oppure era la sponda? No, assolutamente, non era complice degli abusatori. Però era consapevole, sapeva. Esatto, ma una persona consapevole che sa e non fa nulla è complice, secondo me. Non basta essere la confidente dell'abuso, se non fai nulla perché l'abuso finisca ne sei complice. Io la vedo così, Beppe. Beh, purtroppo è molto tranchant, è molto rigido come criterio, ma non posso che condividerlo, nel senso che nel ruolo genitoriale l'essere a conoscenza di un evento così traumatico per una figlia senza poi intervenire implica ovviamente delle responsabilità. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Padova e sono felice di potermi finalmente esprimere per la prima volta facendomi sentire da un po' di persone. Io ho subito abusi da quando avevo un anno fino ai 5 anni, sono stati rapporti orali con mio nonno e quando l'ho rivelato qualche anno fa, io adesso ho 47 anni, e mio zio ha subito immediatamente telefonato a mia zia dicendo che io ho fatto la puttana con mio nonno. Ecco, io credo che questo sia un qualcosa veramente di atroce, che è più grave dell'abuso stesso. Grazie Maria Luisa. Beppe, ci fermiamo qua perché sennò non voglio indulgere in più. È chiaro il vicendo, vicenda è chiara la latitudine, è chiaro anche il contesto. Mi hai anticipato, stavo dicendo, bisogna ringraziare la nostra ascoltatrice perché si dimostra che il Salento si estende anche lungo le praterie padovane. Alla grande sacrestia d'Italia che è appunto il Veneto, in cui lo zio abusatore una volta scoperto dice a lei che faccia la puttana con me, una bambina di 5 anni, pensate un po'. Giuseppe? Pronto? Eccomi. Sì, buongiorno. Intanto ringrazio... Andiamo al punto, però che abbiamo poco tempo. Allora, il punto è questo. Io penso che la trasversalità sia, diciamo, dal pecoraio al professionista, riguardo gli abusi, riguardo la violenza nella famiglia, riguardo il familiarismo amorale, una delle chiavi probabilmente di lettura è proprio preceduta anche dalla telefonata della signora precedente. Sì, non è che noi... Scusi, è che il familiarismo amorale... comporta necessariamente la fattispecie dell'abuso sessuale, è che l'abuso sessuale quando avviene viene nascosto, coperto dal familismo morale, questo è il fatto. Esatto, è proprio lì che volevo dire, però quanto incide un rapporto assolutamente, diciamo, privo di qualsiasi atteggiamento normale di rapporto sessuale che queste persone hanno nei confronti di, è un po' questo il punto, poi c'è la moglie che copre, che sa o non sa. Però voglio dire, alla base della violenza poi di questi uomini, soprattutto nei confronti di, che poi possono sfociare anche... Sì, però scusi, no Giuseppe, il tema oggi non è l'abuso in famiglia. Il tema è un meccanismo familiare che copre qualsiasi cosa, favorisce qualsiasi cosa, purché sia salva la famiglia. E questo è il cardine del discorso, perché all'interno della famiglia che è regolata da queste norme c'è questo meccanismo di repressione e di rimozione che fa sì che queste cose non emergano. Lo stiamo dicendo, stiamo elencando le telefonate, dando visibilità che parlano di abusi sessuali, proprio per dimostrare che non parliamo di una fattispecie che per una sorta di particolare coincidenza cosmico-genetica avviene soltanto a Vetrana. Licia, buongiorno. Buongiorno. Sono un po' raffreddata e volevo dire, sono convinta anch'io che gli abusi siano diffusi dal nord al sud, dall'est all'ovest, però io volevo dire questo, io credo molto alla famiglia e soprattutto alla famiglia quando diventa un modello anche di testimonianza di singole persone, perché molte volte c'è omertà, paura di intervenire così per dire ma non intervengo, la privacy, turbo degli equilibri. Invece? Io penso che tutti noi abbiamo il dovere della testimonianza. E lei chi testimonia? Come? Lei cosa testimonia? Io testimonio che sono possibili le violenze, per me per fortuna sono psicologiche o anche fisiche nei fatti ancora più gravi, però ritengo che tutti noi dobbiamo essere testimoni, capisaldi, punti di riferimento. Sì, però sono belle parole, teorie. Cosa significa? In concreto, qual è la differenza tra lei e il resto del mondo? Io sono stata testimone nella mia famiglia. E di cosa è stata testimone? Ma per esempio, non so, quando un mio fratello era in difficoltà, per esempio, col matrimonio, io stessa in difficoltà di relazione con i figli, ne parlavo con i cognati, ne parlavo con i fratelli. Cioè avete applicato il familismo amorale nel vostro ambito familiare? Come dice? Avete applicato il familismo amorale nel suo ambito familiare? Ha difeso le persone... A mio avviso, mi perdoni, di confronto. Non è un familismo. Sì, ma il confronto è finalizzato alla risoluzione del problema. Sentiamo Beppe Neri. No, ma io penso che la signora voglia fare un riferimento a una formazione di tipo cattolico che merita rispetto. Sì, però la parola testimonianza a me fa già venire i brividi. Vabbè, ma testimonianza è un lessico tipico di un ambito in cui fare o dare testimonianza si rifà a tutta una scuola di pensiero. Sì, fa venire in mente questi auto da fé in parrocchio in cui ognuno racconta cavoli propri. Ci sono varie declinazioni. Vabbè, io sono il principe del familismo morale rispetto alle mie idee, le mie banalissime e detestabili convinzioni. Grazie mille Beppe Neri, grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.